alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Claudio Bigagli legge Il deserto della Libia, di Mario Tobino. Mahmud era nato, come i suoi antenati, nell'oasi di Sorman. Possedeva giardini, che sono appezzamenti, ciascuno con uno o due pozzi. Aveva diversi cammelli, qualche altro capo di bestiame, e una casa quasi all'europea. Era un uomo forte e bello, rispettosissimo, forse fanatico, della religione e dei modi arabi. Nell'oasi era l'unico aperto a ciò che poteva venire dall'Europa e dal mondo. Per ambizione, e perché era utile, il paese essendo sotto lo straniero, Mahmud cercava di divenire amico delle autorità italiane e contemporaneamente promuovere rispetto verso la sua persona e i suoi costumi. Seguiva in questo la politica del padre, che mentre De Bono comandava la Tripolitania, al suo passaggio per Sorman lo ospitava, gli faceva festa, ma con rigore, senza la minima esposizione di donne, con i loro usi, ai quali De Bono lietamente si assoggettava. E in Mahmud era chiaro che l'odio contro l'infedele padrone era così vivo che appena ricercato traspariva, ma nello stesso tempo il suo limpido giudizio, di continuo, gli indicava la realtà, sua e della Libia, e che cioè i sentimenti non servivano. Gli arabi erano pochi, ignoranti e poveri, gli italiani così potenti da essere a petto loro impossibile un paragone. E ora per di più il deserto, che una volta era stato per l'arabo la grande difesa, con l'aviazione non era neppure un misero nascondiglio. Ma nonostante, per questo forse con più dedizione, Mahmud continuava a curare le anime. Aveva un fratello, grassoccio e obbediente. Mahmud l'aveva fatto prete della moschea a insegnare ai bambini il Corano e come dovevano pensare. Lui tra i grandi. Nei giorni di raduno, infatti, e in ogni altra occasione, Mahmud era come una grossa perla mescolata nel mucchio dello spaccapietre. E c'è da aggiungere che Mahmud non si limitava ad essere soltanto quello, era anche generoso, libero, ricchissimo di sentimenti, e frequentando gli ufficiali italiani gli capitava, senza avvedersene, di prendere affetto per qualcuno che era a lui affine, che lo comprendeva, e allora costui faceva attenzioni e piccoli candidi regali, che potevano sembrare dettati dalla prudenza e derivavano invece dalla spontaneità del suo cuore. Due giorni dopo che Mahmud aveva ricevuto il rifiuto, si presentò con il bambino sulle braccia. Il maggiore, che per i discorsi che c'erano stati si era schiarito, si alzò ad accoglierlo. Passarono nella tenda di medicazione, visitò il bambino, poi Mahmud fu invitato a prendere il caffè. Gli ufficiali gli fecero molte domande sui costumi, sull'oasi, sulla religione. Le fitte interrogazioni derivavano anche dal fatto che quei cittadini erano stati tolti dai loro luoghi e occupazioni e si erano all'improvviso trovati in un'oasi. Il caldo non li faceva uscire dall'accampamento, da fare non c'era nulla. Tra loro non si sapevano che poco aprire, che la dittatura aveva insegnato ogni sospetto. Mahmud fu una liberazione. Infine Mahmud invitò a pranzo a casa sua il maggiore e gli altri ufficiali. Sarebbe ritornato a fissare il giorno preciso. Con l'autoambulanza i medici attraversarono quasi tutta l'oasi, che sembrava disabitata. La ruota posteriore dell'autoambulanza, poiché la strada era fatta di sola sabbia, in una curva, rallentando, si insabbiò, girò a vuoto, non facendo presa, e si scavò una buca. L'autoambulanza si fermò. I medici scesero. L'autista, ora che l'autoambulanza era divenuta più leggera, tentò di nuovo di disincagliarla, rimettendo in moto. La ruota sprofondò ancora di più. Allora infilò sotto il copertone una tavola e fu usato un paletto per far leva quando le ruote cominciavano a girare. Infine l'autoambulanza si disincagliò, fu di nuovo orizzontale. Durante questo lavoro, a cui avevano preso parte medici e autista, e che si era svolto sulla strada principale dell'oasi che attraversava i giardini, dove sorgevano case arabe, non si presentò nessuno, né da lontano parve che curiosassero, come fosse notte, presenti solo i raggi della luna. C'era però la sensazione che occhi attentissimi guardassero. e furono davanti alla casa di Mahmud, che era ad aspettare sulla porta, e parve assai animato. Anche in casa sua quel silenzio, e nessun altro, fuorché lui. La stanza dove i medici furono fatti passare aveva davanti una specie di aia. La tavola era apparecchiata. Comparve il fratello di Mahmud, anche lui con una tunica bianca e il turbante. I medici si misero a tavola tra qualche convenevole che quasi non veniva da Mahmud accettato. I suoi occhi, già nerissimi, si erano più accesi. Gli fu detto che allora si mettesse anche lui a sedere, perché era rimasto in piedi, attento, rapido e con una certa foga. Il fratello fu mandato a prendere l'acqua con una broccarella che subito fu bevuta, e in seguito il fratello non fece che andare ad attingere al pozzo. Si sentiva, nelle sue assenze, cigolare la carrucola e lo scroscio dell'acqua che dal secchiello di legno ricadeva. Mahmud, all'invito di sedersi, rispose definitivamente che l'ospite si serve e cominciò infatti, non come un cameriere, ma come un rito, quasi guerriero. Sulla tavola c'era un'unica brocchetta per l'acqua, che doveva perciò essere sempre riempita. Mancava il vino, i tovaglioli erano piccoli asciugamani felpati di colore celeste. Il couscous fu portato dentro una catinella di latta, di quelle per lavarsi, disegnata a fiori. Il pranzo cominciò con un intingolo nero molto pepato che fece venire gran sete. Dopo arrivò il couscous, il piatto nazionale, composto di agnello, tenerissimo, semola, che dava il senso della freschezza, patate che parevano cresciute nel latte. Tutti lo lodarono con soddisfazione di Mahmud, che continuava a mostrare un interno arrovellio. Per la casa il più grande silenzio, eppure le donne di là dovevano aver preparato couscous e resto. Il fratello continuava a rientrare e uscire con la brocchetta dell'acqua. Venivano fatte a Mahmud domande sugli usi e costumi arabi, ma la conversazione era rotta per il suo affaccendarsi a servire. La porta della stanza era rimasta aperta e si vedeva quella specie di aia deserta. Per dolce vi furono delle leggerissime frittelle al miele, buonissime. Il fatto che nessuno della casa era seduto tra gli ospiti fece venire voglia di finire presto. Mentre il maggiore si alzò dalla sedia, comparve un vecchio con la barbetta a punta. Era vestito di una tunica bianca sulla quale spiccava il bruno olivastro della pelle delle mani e del volto. Era agile ancora ed energico. Aveva in mano un bastone che spesso batteva seccamente sul pavimento, come son soliti certi vecchi padroni. Era il padre di Mahmud. Parlava anche lui italiano, ma vi mescolava una costruzione e parole francesi. Fece agli ospiti una generica festa, e in quella trasparì una punta di chi è stato sempre sotto lo straniero ed è sempre riuscito a trattarlo quasi da pari, sebbene con fatica. Si notava infatti un'amarezza ormai pacata, ma ancora presente, per dover far sempre quella parte, raggiungere quel rispetto che avrebbe dovuto invece venirgli naturalmente. Parlò di De Bono e poi di un ignoto colonnello che un tempo nella zona doveva essere stato autorevole. Ingenuamente domandò più volte ai medici se lo conoscevano, dimostrando di credere l'Italia un piccolo paese e tutto attento alla Tripolitania. Intanto Mahmud e il fratello avevano portato le sedie in quella specie di aia. Dalle altre stanze ancora non partiva nessun rumore. Si sentì soltanto, mentre prendevano il tè, un fruscio che da qualche parte proveniva. La casa a tettoia era composta di 5 o 6 stanze, col tetto all'europea, ammobiliate con pochissimi mobili. Il fruscio che si udì non si ripeté. I giovani medici, e anche il maggiore, avevano un gran desiderio di vedere almeno il volto di qualcuna delle donne che sapevano esserci nella casa, e in specie di una, bellissima, 17enne, che la giunta notizia avesse gli occhi neri, fosse snella e ridesse timorosa e ladra di curiosità. Questo desiderio si manifestò genericamente in fitte domande rivolte a Mahmud sulla gelosia degli arabi, sul perché tenere chiuse le donne. Mahmud rispondeva reciso, come una roccia, enunciava le leggi del Corano, era un argomento che lo infiammava. Intanto il fratello aveva portato, e lo aveva messo per terra, un fornelletto a carbone. Gli si era inginocchiato davanti, aveva chinato il volto vicino all'imboccatura e gli dava a soffiare avvicinando le labbra al carbone, che si accese con rapidità. Allora mise al fuoco l'acqua per il tè. Quando il tè fu pronto, Mahmud lo versò nelle tazze e prima, con arabescati movimenti, offrì quello rosso, già molto forte, con molto zucchero. Poi offrì il tè verde, fortissimo, e che si dà dopo pranzi speciali. Il tè così fatto accende le immagini, le rende tumultuose e leggere. I tre arabi lodarono con profonda convinzione il tè, sia il rosso e ancora più il verde, che ha in più un odore di menta e di pepe. Infine arrivò ciò che aspettava il maggiore. Arrivò il cammello. Il maggiore si era informato da Mahmud se era possibile farsi fotografare su un cammello. Mahmud aveva risposto affermativamente. Due medici avevano portato la macchina fotografica. Era un cammello vecchio, molto calmo, come assicurò Mahmud. Sulla groppa ci gettarono una pelle che parve di agnello. Il maggiore, aiutato e spinto, fu sopra a cavalcioni tra le due gobbe. Aveva in testa il casco coloniale. Le due macchinette fotografiche, la pellicola poi sarebbe stata ingrandita, presero la mira. Il signor maggiore guardò verso l'infinito. Altre due volte scattarono gli obiettivi, queste volte con i tre arabi vicino al cammello. Poi un altro medico e il farmacista vollero essere fotografati. Il maggiore aveva pensato di mandare la fotografia così fatta alla moglie. L'autoambulanza al ritorno non si insabbiò. Sono medico di manicomio e una sera di marzo del 1940 ero, come naturale, al manicomio di V e anzi finivo di consultare certe cartelle quando capitò alla porta dell'ospedale, in quella sera di marzo, un uomo di media statura, piuttosto robusto, dell'andatura ondeggiante ai lati destro e sinistro, con la bocca larga, dentuta, muscolosi gli zigomi, gli occhi celesti piccoli e mobili, vestito da capitano medico, avente nelle gambe due stivali semirigidi e lucidi. Cercò proprio di me, entrando nella portineria. Voleva vedere un malato. Mi telefonarono che c'era questo capitano medico. Scesi, lo incontrai, ci avviammo insieme al reparto dove allettava il malato ricercato. Mentre stendevo la mano al capitano medico sussurrando il mio nome, immediatamente mi disse: «Tu, il dottor C, sei un santo. Qui dentro siete santi per il bene che ti voglio». Un po' stupito di queste parole, intanto gli indicai il porticato e feci cenno di accompagnarlo. Ci incamminammo. Il nome del mio ospite era primo capitano medico Oscar Pilli. Egli continuò a parlare. Dopo aver visitato colui che cercava, un ragazzo psicodegenerato, figlio di un maggiore veterinario, ragazzo psicodegenerato al quale si interessò pochissimo, si ritornò indietro e gli volli far vedere un po' del manicomio più illustrativo. Intanto lui faceva fasci d'ogni erba, tra le frequentissime interiezioni «per il bene che ti voglio, sei un santo, carissimo», gli aveva detto che era medico del distretto, che stava visitando le reclute e aveva pressioni da ogni parte, in specie da ufficiali superiori, perché riformasse dei raccomandati. Che persino in quella stessa mattina due ufficiali superiori erano stati in camera sua all'alba. «Mio caro, per il bene che ti voglio, sei un santo a fare questa vita in manicomio, siete santi!» Che dunque, alla prima luce, due ufficiali superiori erano venuti in camera sua per raccomandargli una recluta che nell'oggi avrebbe dovuto visitare. Ma intanto questo signore, pur camminando, entrando al reparto osservazione, parlando con i malati, coi quali conversava come con persone normalissime, pur già avendo detto ai infermieri che erano santi, appellati con carissimi, aver loro indicato il suo petto, cioè le sue decorazioni, come convalida delle parole veritiere che pronunciava, aver alluso dolorosamente, in un attimo, al nastro nero di lutto che gli fasciava il braccio e che significava la morte del glorioso suo padre, mentre tutto ciò egli compiva, inghiottendo saliva, mostrando, indicando, dicendo. Mi aveva anche detto che qualora fosse venuto un richiamo, una guerra, egli aveva visto e saputo che si sarebbe stati dello stesso reparto, lui come capitano medico, io come sottotenente, e che tale reparto era di linea, sezione di sanità, pericolosa. E Oscar Pilli, annunziandomi ciò, aveva fatto qualche commento che si poteva morire insieme, e ripeté che aveva visto le schede di mobilitazione, insieme, nella stessa sezione, che non avrebbe voluto, ma si sarebbe potuto morire insieme. L'accompagnai verso l'uscita. Egli continuava a farandolare. Ci salutammo. Mi ripeté carissimo, e si allontanò con quella sua andatura. Dopo un mese arrivò la cartolina precetto. Dovevo presentarmi all'ospedale militare di V il 25 aprile. Il signor colonnello mi disse: «Voi siete destinato in Libia con la sezione di sanità, partirete fra pochi giorni». Ritornò fuori il primo capitano medico, Oscar Pilli. Il treno ci portò a Napoli, traversammo il mare, il bastimento toccò Tripoli. C'era la scaletta che dal bastimento scende fino alla banchina. Davanti a me c'è Oscar Pilli. Egli apparve, mentre iniziava la discesa, terrorizzato del vuoto. Aveva in mano una valigetta, gli dico di darmela. Egli, con le gambe divaricate, stringendo spasmodicamente passamani con tutte e due le mani, ansante, cominciò a scendere la semplice scaletta. Lo seguivo. Aveva un'angoscia bestiale. Le sue gambe cercavano, tremanti, astrusi sostegni. Infine arrivò vicino alla terra. Scendemmo sull'Africa. Gli restituì la valigetta. Il giorno dopo, caricati alla rinfusa su 7 camion, ci rivoltarono, scaricandoci, nell'oasi di Sorman, verso la frontiera tunisina. In Libia Pilli fu sempre vestito così: una giacca di panno leggero, color pisello smunto, ricordo della guerra di Spagna, e sotto quella un gilet da contadino. Sotto il gilet, nella fodera, fermati da grossi spilli da balia, c'erano i libretti postali, i fogli da 1000 in piccoli pacchi, i buoni fruttiferi, le banconote. Tale agglomerato di carte faceva gobbe per le due parti davanti del gilet. Il gilet non se lo levò mai, né di notte né di giorno. Aveva gli stessi stivali dell'Italia, grossi, rigidi, ricoperti di una pellicola lucida. Sulla testa aveva una bustina più piccola del dovuto. Prima di arrivare a Sorman, io e Pilli avemmo un lieve incidente. Ci lasciarono soli nel deserto. I camion che ci portavano erano uno dietro l'altro. Io ero con Pilli in testa alla colonna. L'autista a un certo punto credette di aver sorpassata la destinazione. Fermò il motore ed espresse il dubbio. Dietro tutta l'autocolonna si fermò. Fino allora c'era stato il Ghibli, ora la notte. Da una parte della strada, distante mezzo chilometro, c'era un lume. Io e Pilli ci avviammo per chiedere l'informazione. Gli altri ci avrebbero aspettato sulla strada. Entrammo nella luce per domandare. Era il comando del reggimento di artiglieria della nostra divisione. Gli ufficiali stavano mangiando. Il colonnello e Pilli si riconobbero. Pilli si accese. Sì, cominciò, e si mise sull'attenti, sorrideva di nuovo, si rigidiva. In Africa orientale, si indicava il petto dove era il nastrino della campagna. Ma infine il colonnello gli domandò cosa voleva. Pilli accese tutte le luci. Nello stesso tempo gli correvano molte immagini, descrisse il nostro arrivo a Tripoli, la marcia per cercare un qualsiasi comando, e nessun comando ci voleva, ci conosceva, sapeva nulla di noi. Descrisse il polveroso caricamento sui camion, del numerosissimo materiale di sanità, il Ghibli che sembrava di navigare in un mondo giallo, parlò del maggiore del nostro reparto, e in ogni descrizione faceva insinuazioni contro qualcuno, le ritirava, le rifaceva, e tutto questo sveltissimo e con precisione. E domandò anche l'informazione che voleva. Tutti stavano desti alle sue parole e avevano a mezzo sospeso di mangiare. Avuta la notizia del luogo, ce ne andammo. Di nuovo si arrivò sulla strada. I camion non c'erano più. «Inaudito! Inaudito!» esclamò Pilli, gridando nel buio, e cominciò a fare brevi passi verso destra e poi verso sinistra. Così continuò, e non decideva niente. «Il maggiore di complemento! Inaudito!» Siccome non c'era altro da fare, lo consigliai di ritornare dal colonnello di artiglieria per farci indicare questa volta il comando di divisione, che lì avrebbero saputo il luogo preciso che doveva occupare la nostra sezione di sanità, e noi lì si sarebbe direttamente andati. Pilli ripiombò quindi alla mensa di artiglieria e appena entrò rifu allegrissimo e illustrò, descrisse, sorridendo, aggiungendo «carissimo» una fila interminabile di «sì sì», spiegò che quando eravamo arrivati alla strada l'autocolonna che ci doveva essere non c'era. E intanto cominciò a mangiare ciò che gli offrivano. Rapidamente calcolò che poi non gli avrebbero fatto pagare nulla. E tra una masticata e l'altra, ripiena la bocca, riprese a insinuare contro il maggiore, contro di me, quando mi assentai, sempre subordinatamente, essendo davanti a un signor colonnello. Infine, saputo dov'era il comando di divisione, di nuovo partimmo, e infine si arrivò in quel punto dove la sezione era già stata scaricata. Pilli si presentò al signor maggiore, si mise numerose volte sull'attenti davanti a lui, subordinato, gaio, festoso. Il punto dove si era accampata la sezione era un campo sabbioso dell'oasi. Da un lato c'era una casa araba. Le case arabe non hanno tetto, hanno solo quattro mura, sopra hanno il cielo. Entrati dentro la casa, sopra la testa c'è il cielo. L'altezza delle mura è di circa 2 metri. Naturalmente se uno dal di fuori tira qualche cosa al di là del muro, questo cade dentro le quattro mura, non essendoci tetto. In Libia c'è il Ghibli, che è un vento che solleva la sabbia e la trasporta per ogni dove. Per proteggere appena un poco la cucina dal Ghibli, la mettemmo dentro la casa araba, la quale, non avendo tetto, lascia sì venire la sabbia dall'alto, ma pur tuttavia, con le quattro mura, un po' di sabbia viene trattenuta. I cucinieri, rinchiusi dalle quattro mura, stavano davanti a marmitte e cazzeruole. Una mattina i cucinieri trovarono, vicino alle cazzeruole, 2 pacchetti incartati con eleganza, incrociati da uno spago. Poiché non sapevano cosa erano, né da dove venivano, insieme i 2 cucinieri, essendosi a loro avvicinati, poiché li avevano visti, si chinarono e li presero in mano, e li slacciarono dallo spago. Aprirono la carta e guardarono, avendo messo alla luce il contenuto, che erano di feci. I cucinieri riferirono a qualche ufficiale la loro lurida scoperta. Si sparse con facilità per la sezione la notizia dei 2 pacchetti, la quale notizia poi si dissolse col passare dei giorni. Ma una mattina i cucinieri ne scoprirono altri 2, e la mattina di poi nuovamente 2. Questa faccenda dei pacchettini di nuovo fu alla ribalta. Il giorno dopo ancora si svelò che era Pilli, che all'alba usciva dalla sua tenda in mutande col gilet zeppo di banconote. Era stato visto da 2 soldati che spiavano, e avvicinatosi al muro della casa araba, lanciava uno dopo l'altro, mostrando gioia nel farlo, 2 pacchetti al di là del muro della casa araba, la quale, non avendo tetto, le cadevano dentro, e cioè nei pressi delle cazzeruole e paioli che occupavano gran parte dell'interno. V'è da insistere che i soldati, spettatori del gesto, notarono, nonostante la loro imperizia nell'afferrare gli stati d'animo, che egli era allegrissimo nel far ciò, e rideva, e quasi sembrava cantasse la musica di un'opera, pur non proferendo verbo. Ma con i gesti e con tutto sé, con l'espressione del volto e delle membra, sembrava. La storia di Pilli si divide in 2 periodi. Uno, il primo, questo, nel quale, essendoci alla sezione un maggiore, un superiore, ed egli avendo timorata idolatria per i gradi, tutto ciò che v'era in lui si manifestò attutito con il bavaglio, anche se non ben estrinto, ma con il bavaglio. Il secondo periodo, dove egli fu comandante assoluto della sezione di sanità, nel quale secondo periodo egli campeggiò prodigo, lussurioso, snodò tutta la coda di drago felice. Qui siamo nel primo periodo. Tanto nel primo che nel secondo periodo la sezione fu in riposo, abbandonata a non far niente ai margini di un'oasi, come durante le guerre spesso accade ai riparti. Alla sezione vi erano diversi occhiali da sole, ricchi e poveri. Oscar Pilli era un ladro. Gli occhiali perfetti, trasparenti, freschi, che riposano la vista, erano quelli Zeiss. Il maggiore medico, che comandava la sezione, era oculista, li aveva Zeiss. Il maggiore medico era un buon uomo che era tranquillamente convinto di dover stare 15 giorni in Libia e poi ritornare, eroe vittorioso, al suo paese e finalmente essere amato dalla moglie più di lui giovane e bella. Accadde che un certo tenente di artiglieria fu di passaggio ospite alla sezione. Aveva anch'egli gli occhiali Zeiss, che sparirono. Gli altri, dei comuni, ne erano spariti. Ne successe nulla. Pilli, quando con noi sbarcò a Tripoli, aveva con sé come bagaglio diverse cassette semivuote. Molti uomini sono ingenui, buoni, ma tutti avari. Accadde dunque che sparirono anche gli occhiali del signor maggiore. Si arrabbiò. In tale frangente non si rivide più un maggiore così energico, però non disse che glieli avevano rubati, disse che li aveva persi e che li avesse trovati glieli doveva restituire. Pilli era stato audace. La cleptomania offusca la luce più viva, perfino il grado superiore al suo, il suo superiore, perfino aveva rimosso. Era inaudito. Qui va aggiunto un personaggio, Capone. La persona umana più si vive, più la si vede misteriosa. Capone era un soldato fedelissimo a Pilli. Egli vedeva ogni malaffare di Pilli e lo amava, devoto, disinteressato. Gli faceva da spia e ogni altro, facendosi odiare da tutta la sezione, senza nessun guadagno. Erano dunque spariti gli occhiali del signor maggiore. Fu messo alla prova il coraggio di Pilli, che non ne ebbe. Ci fu chi consigliò il maggiore come doveva fare se voleva riavere gli occhiali. Doveva precisamente dichiarare che chi aveva osato rubare gli occhiali a lui, maggiore, superiore in grado a tutti, sarebbe stato spietatamente punito, punito militarmente. Il maggiore era il meno adatto a proferire con voce disumana minacce, ma l'immagine dei suoi occhiali gli fece trovare il tono preciso e a tavola, mentre si era tutti riuniti, ripeté come ordine assoluto ciò che aveva detto il giorno prima con tono generico. Guardavo Pilli mentre il maggiore telefonava quello che gli era stato consigliato. Pilli ciondolò la testa, vertiginosamente attento, una leggera bava secca sulle labbra. In quel momento l'immagine del superiore in grado, gli giganteggiava dentro in tal modo da frantumargli la cleptomania. Non è che io fossi sicuro che lui fosse il rubatore, però la logica e il sospetto di tutti erano su di lui. Si finì il pranzo, ognuno si disperse nelle proprie tende, avvolto dal caldo come dal cotone. Il giorno dopo entrò in scena Capone, il fedele servo. Capone si presentò al maggiore e dopo aver fatto il saluto, offerse gli occhiali, disse di averli trovati nell'intercapedine della tenda di medicazione. Poiché sapeva che il maggiore li aveva persi, glieli aveva riportati. Dalla minaccia fatta a tavola dal maggiore erano passate 24 ore. Qualcuno potrebbe dedurne che Pilli dimostrò una forza, che non si lasciò travolgere, non consegnò subito gli occhiali, resistette 24 ore. Pilli andò, dopo aver udito il severo ordine militare di riconsegnare gli occhiali, nella sua tenda, aprì una delle sue cassette le quali contenevano ogni sorta di oggetti, disposte in ordine meticoloso, e avendo preso in mano gli occhiali del signor maggiore, li contemplò. Allora fu che la splendente cerchia gerarchica si alzò contro la cleptomania. Per 24 ore combatterono con alterna vicenda, finché l'astratta luce del grado superiore, come così spesso si legge nelle storie umane, vinse e il maggiore oculista riebbe i suoi amati occhiali. Claudio Bigagli ha letto Il deserto della Libia di Mario Tubino, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. regia di Francesca Zammarelli. Ad alta voce @rai.it